Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 2 febbraio 2015. Trovato l'accordo, il tempo di Greenwich va in pensione. Sono voluti 3 anni in più, 3 anni di pausa e di ripensamento, ma alla fine anche gli inglesi hanno deciso di ammainare la bandiera di Greenwich e così dal 1 gennaio dell'anno prossimo il tempo mondiale non sarà più quello dell'osservatorio sul meridiano, ma il tempo atomico, frutto di una media tra una trentina di orologi atomici nel mondo. Il tempo terrestre infatti ci faceva perdere ogni anno e mezzo circa un secondo, perché la rotazione della Terra non è perfettamente regolare. Fin qui la notizia del 2 febbraio 2015, ma come diciamo sempre, il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. In questi giorni infatti è fallita la trattativa per trovare un accordo per il passaggio dal tempo terrestre a quello atomico ed è stato rimandato tutto a tra 3 anni. Leopoldo Benacchio, docente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica all'Osservatorio di Padova. Fra 3 anni si spera che questo secondo venga abolito e che si adotti il tempo atomico. Il motivo è molto semplice. La Terra gira e noi abbiamo sempre misurato il tempo con la rotazione terrestre. All'alba segue il tramonto e dopo 365 tramonti abbiamo un anno e ogni 4 anni un anno bisestile. Cosa è successo? Più riusciamo a misurare in modo sopraffino la rotazione terrestre e più ci rendiamo conto che l'asse della Terra ha un leggerissimo tremolio. La conseguenza è che ogni anno e mezzo circa, ma non con regolarità, c'è un secondo che scatta in più o in meno rispetto al nuovo tempo che utilizziamo, che è quello misurato dagli orologi atomici, dove un elettrone fa esattamente, quindi una particella elementare, fa esattamente quello che fa il pendolo del vecchio orologio del nonno, va su e giù, solo che il pendolo lo fa una volta al secondo e l'elettrone lo fa 7 miliardi e passa di volte in un secondo. Quindi abbiamo una migliore determinazione del tempo, un secondo di scarto ogni 30 milioni di anni. Ecco quindi che dopo 10 anni di discussione si spera che nel 2015 il tempo sia definitivamente misurato dagli orologi atomici. Ed è tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Roberta Giordano e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.